figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata a tutti da Valentina Furlanetto. Chi ricoverato in un letto d'ospedale non amerebbe la compagnia di una voce che legge per noi un bel libro? Beh, quest'idea è venuta al circolo dei lettori di Torino che andranno negli ospedali a leggere Proust, Flaubert, ma anche qualche bestseller o qualche bel thriller. Ci racconta tutto Ludovica Gallo Orsi, responsabile del progetto. L'idea è quella di creare un gruppo di persone giovani, abbiamo dato un limite di età 18-35 anni, questo semplicemente perché all'interno di questo progetto, quindi nel 2010 sarà così, poi se riusciremo a continuare nel 2011 possiamo anche ampliarla a un target diverso. Questo gruppo di ragazzi che stiamo reclutando proprio a gennaio-febbraio, quindi diciamo che a fine febbraio finisce la campagna reclutamento, verranno formati in due sessioni. In una ci sarà un regista teatrale, Gabriele Vacis, che ha dato la sua disponibilità, farà un incontro su ritmo, tono, volume, per insegnare appunto come si legge ad alta voce, e l'altra sessione invece impareranno come funziona il prestito nelle biblioteche civiche, perché oltre a leggere negli ospedali i ragazzi gireranno con un carrello pieno di libri, e sono libri delle biblioteche civiche, sono libri che verranno dati in prestito ai degenti o anche ai parenti o anche al personale ospedaliero, e chi prende il libro in prestito può restituire o sempre attraverso il carrello, anche quando esce in una delle sedi delle biblioteche civiche. Allora, in quali ospedali tutto questo avverrà a breve? Partiremo appunto, finito il reclutamento gennaio-febbraio, la prima settimana di marzo partiremo per ora in due ospedali di Torino uno siamo entrati noi proponendo il servizio, un altro invece ci ha telefonato perché ha letto sul giornale che c'era questa iniziativa e ci ha chiesto di farlo anche tramite loro. Come deve fare una persona che è interessata a diventare volontario della lettura a Torino? Funziona così, le persone che sono interessate devono mandare una mail a volontarilettura@circololettori.it. Noi telefoniamo a tutti, chiediamo di fare un primo incontro per conoscerci, e poi se diciamo le loro intenzioni e anche la loro disponibilità coincide con il progetto, seguiranno le due giornate di formazione. Oltre che leggere o farsi leggere un bel libro quando si è ricoverati, si può anche imparare a usare il computer grazie a Informatici Senza Frontiere, una onlus che nasce a Treviso. Sentiamo il presidente Girolamo Botter. Negli ospedali italiani portiamo soprattutto dei PC che consentono ai bambini che sono ricoverati nei reparti di lunga degenza a utilizzarli per collegarsi a internet, dialogare con gli amici, con i genitori, con la famiglia o giocare, cose che sono molto importanti perché permettono a questi bambini di comunque continuare a tenere un'attività sociale. Avete però anche altro tipo di attività, mi diceva, anche all'estero? Paesi africani portiamo sia dei PC che sono spesso dismessi dalle aziende perché diventati obsoleti, e diventano delle aule informatiche dove poi portiamo anche dei corsi di alfabetizzazione informatica. Oppure in Africa sempre abbiamo realizzato un software per la gestione di piccoli ospedali rurali, abbiamo 2-3 installazioni già in Kenya, in Uganda e nel Benin. Come nasce Informatici Senza Frontiere? Nasce da un gruppo di professionisti del mondo dell'informatica del Veneto nel 2005 che intendevano utilizzare la tecnologia, il loro know-how, anche per sostenere delle persone disagiate o delle popolazioni in via di sviluppo. E poi via via si è sviluppato, diffondendosi in tutta Italia, questa iniziativa. Adesso siamo presenti praticamente in tutta Italia con 180 soci. Se qualcuno in ascolto volesse regalarvi attrezzatura, stampanti, PC... E potete collegarvi con il nostro sito www.informaticisenzafrontiere.org dove ci sono i riferimenti ai quali contattarci. Da Informatici Senza Frontiere alla più conosciuta Medici Senza Frontiere. Gli operatori, medici, infermieri sono entrati dopo 5 anni di assenza nuovamente nelle 21 strutture che in Italia accolgono i migranti, i centri di accoglienza, i centri di accoglienza per richiedenti asilo e i centri di identificazione ed espulsione. Sentiamo cosa hanno trovato dal direttore generale di Medici Senza Frontiere, Kostas Moskokoritis, intervistato da Savino Gallo. Abbiamo visto miglioramenti per di più sugli edifici, ma la situazione e le condizioni non sono simili a quelle che abbiamo incontrato durante il nostro primo rapporto. Infatti quello che è molto seria è l'assenza delle autorità sanitarie nazionali dai centri. Un altro punto importante è che ancora non abbiamo visto adeguamenti dopo nelle strutture e nei servizi dopo la decisione di estendere il tempo di detenzione da 2 mesi a 6 mesi. In generale è un approccio ancora emergenziale per una situazione che va avanti da anni, e secondo il fatto che prevalentemente su quello che interessa a noi, la parte della salute e le condizioni di vita, l'approccio è di coprire solamente a malapena i primi bisogni, le necessità di base, senza avere un aspetto più strutturato. Per esempio Trapani e Lamezia Terme vanno chiusi perché anche gli edifici non sono adatti a persone che devono stare là per quasi 6 mesi. C'è da dire che il capo dipartimento del Ministero dell'Interno, Mario Morcone, ha detto che quella di Medici Senza Frontiere è una posizione ideologica. In ogni caso l'associazione non è potuta entrare a Bari e Lampedusa perché la prefettura non ha autorizzato l'accesso. Ma sentiamo ancora fra le interviste realizzate dal nostro Savino Gallo, Alessandra Tramontano, coordinatrice medica della missione italiana di Medici Senza Frontiere. Abbiamo visto a Roma dove nel momento della nostra visita non erano stati distribuiti beni di prima necessità, quindi mancava la carta igienica piuttosto che il sapone e cose simili. Abbiamo visto centri dove il sovraffollamento creava enormi problemi, per cui persone erano ospitate in container abitativi senza aria condizionata, piuttosto senza riscaldamento, molto lontano dai servizi centrali, quindi a Foggia per esempio mancava una mensa e la popolazione deve consumare i pasti all'interno del container, sui letti piuttosto che sul piazzale. La situazione è molto appunto, come dicevo, eterogenea a secondo delle situazioni, quindi ci ha colpito soprattutto che non esistano dei protocolli comuni di intervento e soprattutto in campo sanitario. Questo ci ha colpito, il fatto che ogni ente gestore spesso applica soluzioni differenti, per esempio per l'assistenza sanitaria. Molto spesso si guarda soprattutto alla situazione emergenziale senza occuparsi invece dell'aspetto comunitario, quindi anche dei problemi di salute che comunque può avere una popolazione che in molti casi è una popolazione già vulnerabile all'arrivo, quindi all'ingresso nei centri, e trattando la salute come una situazione emergenziale non si identificano problemi che poi vengono accumulati nel tempo e questi pazienti si portano dietro. La situazione è abbastanza diversa. I centri di identificazione ed espulsione sono dei centri chiusi, quindi sono paragonabili a dei carceri in sostanza, tenendo presente che però per la stragrande maggioranza dei casi gli abitanti di questi centri non hanno commesso crimini o comunque a parte l'immigrazione clandestina. E i CARA sono dei centri aperti, quindi dai CARA è più facile andare e venire, ci sono più attività all'interno dei CARA, però l'importante è che dovrebbero esserci degli standard fissi, minimi, riguardo alle condizioni di vita, e questi non sempre sono presenti. Vi è stato negato l'accesso per quanto riguarda Lampedusa e Bari, volevo sapere... Sì, questo è un buco all'interno del rapporto, sia a Bari, durante le due visite che abbiamo effettuato ci è stato negato l'ingresso, abbiamo potuto visitare solo gli spazi comuni, quindi non gli spazi abitativi dei detenuti, e a Lampedusa stessa cosa, nonostante noi fossimo presenti all'epoca sull'isola con la nostra attività per gli sbarchi, l'ingresso all'interno degli spazi abitativi è stato negato. Per quale motivo? Questa è una buona domanda. Ufficialmente motivi di sicurezza, motivi di... non era il momento. Comunque sta di fatto che non siamo entrati. Sabato prossimo in tutta Italia è possibile partecipare a un'iniziativa del Banco Farmaceutico. Diamo quindi il benvenuto al presidente del Banco Farmaceutico, Paolo Grandic. Grazie dell'ospitalità. Sabato prossimo possiamo andare in farmacia, nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa del Banco Farmaceutico, acquistare un farmaco e consegnarlo al volontario del banco che troveremo in questa farmacia, affinché possa questo farmaco aiutare una persona indigente che ha bisogno proprio di quel farmaco. Ci sono dei farmaci che più di altri potrebbero aiutare, oppure ci dobbiamo affidare al farmacista per questo? Ogni farmacia è associata a un ente, per cui a ogni farmacia è stato comunicato il bisogno reale degli indigenti che quest'ente assiste. Per cui affidiamoci pure al farmacista che ci indicherà quali categorie di farmaci sono le più adatte al nostro gesto di solidarietà. Presidente, poi il percorso che compiono questi farmaci qual è? Direttamente alle associazioni? Sì, come dicevo, ogni farmacia è associata a un'associazione di assistenza, per cui questi farmaci poi fisicamente verranno portati presso questa associazione, nel caso che questa associazione abbia un ambulatorio proprio, oppure sarà direttamente l'indigente a ritirare il farmaco in farmacia. Grazie Presidente, a presto. Prego, prego, grazie a voi. Grazie anche a voi per essere stati all'ascolto. Vi ricordo questa iniziativa sabato prossimo, 13 febbraio, del Banco Farmaceutico. Noi invece ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 14:15, sulle frequenze di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un buon pomeriggio a tutti da Valentina Furlanetto.